puoi chiudere gli occhi, rilassare il tuo respiro e lasciare che le spalle si abbandonino alla forza di gravità. Ora può darsi che la tua mano destra si faccia più leggera. Non puoi sapere se si farà più leggera gradualmente, proprio così, così leggera, da sollevarsi un poco. E può darsi che si sollevi con continuità, così. Comincia a muoversi con piccoli scatti, con un piccolo e sincero movimento inconscio. E non puoi sapere se il tuo braccio salirà così in alto che la tua mano prima o poi tocchi la tua fronte. Non puoi sapere se lo farà prima, dopo che anche il tuo gomito si sarà più alzato il polso. E può darsi che a toccare la tua fronte sia la mano o siano le dita o sia il polso. Può darsi che la tua mano si faccia così leggera che fluttui ancora verso l'alto, oppure rimanga lì ancora per un poco, oppure cambi di posizione per appoggiarsi ancora più saldamente all'aria. Darsi che venga spinta dal basso verso l'alto o che sia attratta dall'alto. Proprio così. Non puoi sapere quando il tuo polso o la tua mano o le tue dita toccheranno la fronte. Non puoi sapere neppure se lo farà prima o dopo che l'altra mano si sia fatta più leggera. Così leggera che pian piano gentilmente si sollevi un poco, oppure diventi più pesante, proprio così. E quando il tuo polso o la tua mano avrà toccato il tuo viso, la tua fronte, sentirai un senso di profondo benessere che dipende dall'allineamento di tutte le tue forze interne verso il progetto della tua scintilla divina. Porterà a un cammino sicuro verso una piena e rapida guarigione di tutte le tue forze, di tutti i tuoi sistemi, che si allineeranno con grande determinazione, un grande progetto di trasformazione personale a tutti i livelli, a livello fisico, a partire dalle cellule, dai tessuti, dagli organi interni, a livello emozionale, mentale e spirituale. Cosicché quando il tuo polso, la tua mano o le tue dita avranno toccato la tua fronte, proprio così, allora avvertirai questo senso di profondo sollievo, come liberazione, una serie di ostacoli che possono aver cagionato da solo insieme ad altre forze, una resistenza alla trasformazione radicale di tutta la tua vita. E non so se ti rendi conto di come qualcosa sta cambiando a livello del tuo pericardio, del sistema di fasce muscolari che proteggono il cuore. E mentre la tua mano destra continua il suo movimento in modo da secondare questo progetto di piena trasformazione e riorganizzazione interna, potrai prima o poi avvertire una sensazione di apertura proprio al centro del cuore, come se si aprisse una finestra per far entrare nuova luce e per far uscire luce dorata. Proprio così. E ogni volta che penserai al centro del cuore, porterai attenzione, ti accorgerai che in ogni parte del tuo corpo puoi avvertire un senso di apertura e gratitudine profonda per l'intero processo della vita di cui tu fai parte, che con le sue leggi, attraverso i suoi modi, che non sono quelli della mente conscia, ti ha portato a nascere, a vivere e a produrre straordinari cambiamenti che stai attuando in questi giorni e in questo particolare momento. Proprio così. Così che anche la mano sinistra, appoggiandosi all'aria, potrà sentire il flusso del respiro della vita che anima ogni cellula del tuo corpo, in modo che ogni contrazione o tensione possa essere naturalmente sciolta nel momento in cui il polso della mano sinistra toccherà la tua fronte. In quel momento sentirai per la seconda volta un grande sollievo, proprio così. Una seconda grande liberazione di tutte le forze sane e positive che attraversano tutte le cellule, tutti i tuoi sessuti, tutti gli organi interni, guidati da una grande intelligenza che viene da molto lontano, un'intelligenza di luce, di suono primitivo e primordiale, che ti collega a tutto ciò che c'è, proprio così. E questo senso di connessione che stai sperimentando in questo momento potrà accompagnarti da adesso in avanti, in ogni istante della tua vita, ogni volta che ne vorrai essere consapevole, ti sarà sufficiente richiamare alla memoria questo speciale momento. Oggi è il 26 maggio, ti basterà ricordare questa data. Il numero 26 o il mese di maggio, che diventerà un'ancora indelebile per richiamare a te e rinforzare il processo avviato adesso. Proprio così. Così che quando avrò finito di contare da 1 a 6, nel momento in cui il tuo sistema sarà pronto, i tuoi occhi si riapriranno e potrai ritornare qua, alla realtà, nel mondo esterno, qui ed ora, uno, due, con un senso di gratitudine, tre, e di apertura, quattro, e fiducia, cinque, e sei, bentornata. Ci iscrivo anche io a questo seminario. Bellissimo, fantastico. Niente però bella. Sarebbe carino anche tirare giù per scritto, ma ne avevamo, cioè.